punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Una nuova settimana che si va a concludere. Un saluto da parte mia, sono Gigi Donelli al microfono, da Fabio Cantadori in regia, per raccontarvi come sempre in questo spazio, prima di parlare dell'Europa e immersi nell'informazione dei nostri GR, quella che appunto è stata la settimana, naturalmente alcuni dei momenti che varrebbe probabilmente la pena ricordare. Cosa ricordare di questa settimana? Beh, l'inizio della settimana, forse ricordate, si faceva un gran parlare di Angela Merkel. Angela Merkel, cancelliera, della sua sconfitta elettorale. Per tutta la settimana abbiamo parlato e continuiamo a farlo di Grecia, dunque di euro e di crisi. Però in questo primo spazio, in questo primo preambolo, vorrei condividere con voi due notizie che invece mi porterò dietro in questa settimana. Una è quella che racconta degli Stati Uniti che cambiano, di un paese in cui quelle che vengono chiamate minoranze, minoranze etniche rispetto ai bianchi, sono ormai la maggioranza. Questo ci dice anche che l'elezione di Barack Obama, ormai quasi 4 anni fa, evidentemente non è stato un caso. L'altra notizia che vi riporto e che sicuramente cercherò di tenere a mente è che l'età media della nostra classe dirigente è di 59 anni. 59 anni età media. Forse molte, come dire, molte difficoltà, anche molte asprezze, soprattutto per i giovani che in questi mesi, in questi anni cercano di entrare nel mondo del lavoro, possono essere raccolte anche in questa notizia. Punto e a capo. Lunedì 14 maggio, la sconfitta dolorosa, anche piuttosto fragorosa, della cancelliera Angela Merkel in un Länder molto importante. Il racconto nel servizio di Alessandro Merli. Se il disastro elettorale di domenica scorsa nel Nordrhein-Westfalia è stata una sconfitta amara e dolorosa, come l'ha definita lei stessa ieri, non per questo il cancelliere tedesco Angela Merkel intende deviare dalla sua politica dell'austerità fiscale. La nostra linea in Europa non cambia, ha detto ieri la signora Merkel. Stasera verrà messa subito alla prova il primo vertice franco-tedesco a Berlino con il nuovo presidente francese François Hollande, poche ore dopo l'insediamento di quest'ultimo all'Eliseo. Hollande vuole più misure per rilanciare la crescita e il cancelliere gli lascerà spazio su alcuni punti che non sono controversi, come i bond per finanziare le infrastrutture e l'uso dei fondi europei. Forse si troverà il modo di aggiungere un appendice sulla crescita al patto fiscale già approvato in Europa. Quel che è certo è che la signora Merkel, anche in vista delle elezioni politiche del 2013, non può permettersi il lusso di ignorare il voto del Nordrhein-Westfalia. Ci vive un quarto dei tedeschi e ci si produce un quinto del reddito nazionale. Molti fattori locali però hanno avuto un peso importante ed è prematuro pensare che si tratti dell'inizio o della fine per il dominio incontrastato che il cancelliere ha esercitato negli ultimi anni sulla politica tedesca. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Da Francoforte a Berlino per l'incontro che appunto si è verificato regolarmente, anzi quasi regolarmente, visto che la prima trasferta del neo presidente francese François Hollande è stata ritardata da un fulmine che ha colpito l'aereo presidenziale, ha dovuto tornare sul suolo francese e poi ripartire, ma l'incontro appunto poi si è realizzato normalmente. Una presa di contatto e comunicati che parlano già nel tardo pomeriggio di mercoledì, di un impegno da parte franco-tedesco di rispettare le decisioni prese nel frattempo ad Atene, in particolare quella di tenere nuove elezioni. Ecco, i leader dunque si incontrano al capezzale di una nazione e parlandone delle difficoltà che poi riguardano evidentemente tutti quanti, proiettati già però verso il fine settimana, che è questo. Ieri, oggi, gli incontri a Camp David del G8, insomma di fatto una sequenza ininterrotta di incontri diplomatici al vertice. Ma sulla questione greca sentiamo invece che cosa ha detto mercoledì il nostro ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. La Grecia è un problema più tocca tutto il mondo, ma è più di responsabilità europea e quindi immagino che sarà uno dei temi sullo sfondo del G8, ma non direttamente lì la responsabilità per trovare una soluzione. Però l'Europa finalmente deve prendere veramente in mano la situazione e capire che il problema della Grecia è un problema gestibile ed è un problema dove l'Europa può veramente dare una soluzione definitiva. Da Camp David noi tutti ci aspettiamo un segnale forte ma concreto in termini di responsabilità e commitment, impegno dei grandi del mondo in termini di crescita. E qui l'Europa per ora ha più parlato che portato fatti e cose concrete. A proposito di parole rispetto alle cose concrete, per tutta la settimana si è parlato dell'ipotesi di uscita più o meno pilotata dalla Grecia dall'euro. A fine settimana, anzi ieri, il vicepresidente della Commissione Olli Rehn è dovuto intervenire in prima persona proprio per smentire il commissario Kaler de Gucht, che aveva parlato di un piano di Commissione e BCE, Banca Centrale Europea, su ipotesi di uscita della Grecia dall'euro. Insomma, il tema è caldissimo e su questo mercoledì Giulio Tremonti a Focus Economia. Il problema della Grecia è che può costituire un problema di chi ripaga quel debito. Poi è un problema di che cosa succede dopo, quali effetti emulativi in altri paesi e poi, mistero, quanti derivati sono sopra la Grecia, quante operazioni difficili da calcolare e aggiungo anche da smontare eventualmente. L'esempio che viene fatto è un po' quello della Lehman. Ora è difficile avere un'idea di cosa c'è sopra. Quando la cancelliera tedesca alla fine dice, e altri autorevolmente dicono, ma non i ministri, molti ministri dicono deve uscire tout court, dicono avrebbe conseguenze incalcolabili, credo che nel calcolo vadano messe le conseguenze emulative di irradiazione di quel precedente in altri paesi e conseguenze finanziarie tout court, cioè dire cosa succede sui derivati che magari ci sono sulla Grecia. Le chiedo di rispondere secco alla domanda che le ho fatto prima. Secondo lei alla fine uscirà la Grecia dall'euro oppure no? A guardare la situazione politica greca e a guardare la situazione europea al momento. Guardi, io non posso, non sono di quelli che fanno previsioni. Io vorrei che non uscisse. Per prudenza, per ragione, per ragioni economiche e anche politiche. Prudenza, ragioni economiche, politiche, come vi ho detto proprio nella giornata di ieri è stato veramente un vespaio sollevato dall'affermazione del responsabile commissario al commercio Kaer de Gucht, che ha parlato di una costruzione nell'ombra di un piano di uscita. Ma a proposito delle implicazioni, tra gli ospiti della settimana vi segnalo Mario Seminerio, economista, blogger, e parla e spiega quale secondo lui sarebbe le conseguenze gravissime di una uscita della Grecia dall'euro. Una uscita dall'euro in questo momento sarebbe veramente quello che definire un effetto catastrofico, un evento catastrofico sarebbe un pallido eufemismo. Io probabilmente la popolazione lo percepisce. Bisogna capire che la popolazione è stremata da anni di austerità priva di senso, perché è costruita malissimo e gestita peggio, soprattutto a un ritmo che avrebbe ucciso chiunque, e questo lo sappiamo e anche noi italiani per certi aspetti purtroppo stiamo cominciando a sperimentarlo. Ma se la Grecia dovesse tornare ad una propria valuta nazionale sarebbe un processo terribile, perché si passerebbe attraverso una perturbazione inflazionistica violentissima, si tornerebbe a forme di baratto, ci sarebbero ovviamente moti di piazza perché non ci sarebbero più pensioni, stipendi, ci sarebbe una transizione d'avvio che sarebbe estremamente sanguinosa. Quindi è evidente che se si deve cercare tracciare la strada del buon senso è quella di gestire questo rientro fiscale in maniera non così violenta, ma molto controllata dall'esterno, e non passare all'uscita. Chi afferma che sia possibile uscire dall'euro in questo momento, con questo assetto istituzionale europeo, magari se ne può negoziare anche un altro, ma richiederebbe delle forme di assistenza estremamente delicate, chi afferma che sia possibile uscire dall'euro, prendersi la svalutazione, reincamminarsi come se nulla fosse successo, a mio modo di vedere, o non sa quello che dice o è in profonda malafede. E qua ci sono anche riflessi politici sulla nostra attualità italiana, ma a quelli non vorrei fare riferimento perché... E questo era Mario Seminerio, economista, dunque la sua indicazione, insomma il suo parere sui rischi che ci sarebbero per tutti sul sistema euro da una possibile uscita della Grecia, li ha espressi chiaramente, che in qualche modo... fanno un po' il paio con alcuni punti di vista che invece sollecitano quasi con una sorta di entusiasmo all'idea di sganciamento dal sistema, spesso senza poi chiarire quali potrebbero essere davvero le conseguenze. Ma intanto l'Europa l'abbiamo detto tante volte quest'anno, mai così discussa, mai così al centro dell'attualità, degli interessi proprio quotidiani dei cittadini, di tutti noi, a cominciare evidentemente dall'euro stesso. L'Europa che si trasferisce per il fine settimana, si fa per dire, oltre Atlantico, dunque il G8, Camp David, un luogo storico, riservato, chiuso, dove non a caso infatti si sono tenuti dei vertici celebri, tra cui quello israelo-palestinese, che era previsto in un primo tempo a Chicago. Chicago però è stata considerata una sede un po' troppo pericolosa, tra manifestazioni, rischi di proteste, eccetera, eccetera, e anche perché, per fare una cortesia al neo presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è stato spostato da Chicago a Camp David, perché a Chicago, subito dopo il G8, inizia il vertice NATO. Beh, la cortesia è stata del tutto inutile, perché Putin ha dato forfè e ha mandato a Camp David il suo primo ministro, chi è? Dmitry Medvedev, già presidente della Federazione Russa. Insomma, negli ultimi anni le cose non si muovono molto sulla sponda della Moscova. D'altra parte, il presidente americano Barack Obama preme e dice ai partner europei di affrontare, gestire, risolvere la crisi, che certo è europea, ma ha implicazioni per tutti. Punto e a capo. Sento troppe volte dire che il disagio sociale può portare al terrorismo. Non è vero, non c'è nessuna relazione. Così a Gorizia, anzi a Monfalcone, provincia di Gorizia, al porto, dunque il cantiere, il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, commenta gli episodi legati a rivendicazioni terroristiche delle ultime ore. Dice: il disagio sociale va risolto attraverso le politiche necessarie a dare risposte alla gente. Il terrorismo, ha concluso, crea semplicemente danni al movimento dei lavoratori. Il punto di Cristina Carpinelli. Mi auguro che non si enfatizzi troppo, che non si dia troppo eco, che potrebbe in qualche modo, di cui questo nuovo terrorismo potrebbe anche autoalimentarsi. A parlare è l'onorevole Sabina Rossa, parlamentare del PD. Sabina Rossa è la figlia di Guido Rossa, l'operaio sindacalista ucciso perché aveva denunciato un membro delle Brigate Rosse. È stato ucciso questa mattina attorno alle 7, a poche decine. Quanto è cresciuta, quanto è maturata la società civile in questo senso nel nostro paese? Sono considerazioni che vengono in mente dopo l'attentato a Roberto Adinolfi dell'Ansaldo di Genova. Ancora Sabina Rossa. È quello che oggi, no, da più parti si dice: il terrorismo può rappresentare un fenomeno di tipo endemico, no? Però è un fenomeno endemico che non si sviluppa autonomamente. È un paese che non è un paese pacificato, dove non abbiamo verità, non abbiamo verità sicuramente e soprattutto sulle stragi, verità parziali sul terrorismo di quegli anni, verità giudiziarie parziali. E poi non c'è mai stata una volontà della società nel suo complesso di fare chiarezza, non c'è stata una volontà neanche a sinistra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

di pretendere o di chiedere un posto dove fare cultura. Beh, innanzitutto io mi auguro che fare cultura sia veramente avere cultura, cioè in qualche modo manifestare qualche cosa di positivo, di utile per gli altri, insomma, o anche soltanto per se stessi. Ma questo, con questa idea della cultura, ormai i giovani fanno quello che diavolo vogliono, cioè spesse volte si riuniscono solo per fumare o per chiacchierare. Con questo, per carità, hanno il diritto anche di fare quello, non è che gli voglio negare il diritto di fare quello. Però si abusa un pochino della parola cultura. E a proposito di abusi, di certo sono ben più clamorosi e odiosi quelli fatti appunto sui rimborsi elettorali. Al centro di questo vero e proprio uragano, la Lega, nel mirino della magistratura, di fatto in settimana c'è finita tutta la famiglia, l'ex senatore Umberto Bossi, i suoi figli Renzo e Riccardo, e in più il senatore leghista Pier Giorgio Stiffoni con l'imprenditore Paolo Scala. Questa è l'inchiesta della Procura di Milano sull'uso illecito dei rimborsi elettorali della Lega, si parla di 18 milioni del 2011 di rimborsi, che si estende così ai vertici più alti. Chi ne ha parlato con il nostro Alessandro Milan, era giovedì 17 maggio, è Matteo Salvini, sentiamolo. La domanda è secca, ma il cognome Bossi a questo punto è un peso per la Lega o è ancora una ricchezza? Ma guardi, Bossi ci ha portato fino a qua e ha avuto il merito storico di dare il nome e il cognome a un problema che è quello del Nord, che adesso sta soffocando, come chi segue Radio 24 sta ben sentendo in questi mesi. Detto questo, la Lega va avanti, prescinde dai nomi, è il progetto quello che ci interessa. Umberto Bossi si è dimesso da segretario al congresso di giugno, probabilmente eleggerà Bobo Maroni, Renzo Bossi si è dimesso da tutto quello da cui si poteva dimettere, e guardiamo avanti e ci dispiace che da due mesi stia parlando degli errori evidenti commessi da Renzo e dalla famiglia, e purtroppo si parli un po' di meno della disastrosa situazione economica. Senta, qua c'è la situazione per cui anche ci si chiede, almeno su Repubblica c'è questa retroscena, la domanda: Renzo Bossi deve essere espulso, Maroni dice non lo so. Cioè, Renzo Bossi, per esempio, è compatibile con la Lega? Perché Rosi Mauro è stata cacciata non farà mai più nessun tipo di attività politica, e questo ai militanti, agli elettori, anche non della Lega. Immagino sia la risposta che aspettavano. Detto questo, come Lega pago le mie colpe, che ci sia un'attenzione, un accanimento. Io sentivo anche i titoli del giornale radio di Radio 24 in base ai quali avremmo truffato 18 milioni di euro. 18 milioni di euro è il rimborso elettorale della Lega, che è stato usato, ripeto, per attività sul territorio, per dare risposte. Una parte di quelle sarebbero finite. Minima parte sarebbe stata usata male dai figli di Bossi, che pagheranno e restituiranno tutto fino all'ultimo quattrino. Che la Lega dica cose scomode in Italia e in Europa e dica che questo è un governo che sta massacrando il paese, massacrando l'impresa, massacrando il lavoro, probabilmente qualche accadimento contro la Lega. No, questo mi interessa capirlo. Che vuol dire restituiranno tutti i soldi fino all'ultimo quattrino? Cioè, voi potete fare causa ai figli? Certo, la parte lesa è la Lega. Quindi intendete fare causa ai figli di Bossi, diciamo. Adesso vediamo, perché noi abbiamo notizie di giornali, vediamo che cosa emergerà. I soldi investiti in diamanti sono stati portati indietro, i soldi investiti in Tanzania sono stati portati indietro, i soldi investiti in oro sono stati riportati indietro, e verranno usati per fare attività sul territorio, per dare risposte sulla tassa sulla casa ai cittadini di Cuneo piuttosto che di Verona. Quindi noi chiederemo indietro fino all'ultimo quattrino eventualmente mal utilizzato. Ottimo, aspettiamo allora fiduciosi, come aspettiamo davvero un radicale cambiamento in senso di grande trasparenza, tutto quello che è il tema del finanziamento alla politica, dove peraltro c'è stato anche un referendum. Il giorno successivo, sempre da Alessandro Milan, un'altra squadra, ma un tema che non cambia. Agenzia, c'è qualcuno che vuol passare troppo comodamente dal banco dell'accusato di cose molto gravi a quello dell'accusatore. Così il senatore Enzo Bianco, che ha parlato di Domenico Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, che ha accusato proprio Bianco e altri vertici di avere percepito a loro volta dei soldi, che appunto ora accusano pesantemente Lusi. Ma sentiamo Enzo Bianco. I finanziamenti pubblici, se sono

che sicuramente mi segnalerà qualcuno un domani dicendomi quello non era male. Si sa sempre a posteriori però, perché si fa sempre con entusiasmo e dopo è si vero, scopre. Sì. Questa è la maledizione della musica, non è come il calcio che quando fai gol godi subito, hai capito? La musica è insomma sono come i film, cioè hai un responso dopo un lungo tempo. Come si tiene la barra dritta per tutti questi anni e si va avanti nonostante insomma gli alti e i bassi che succedono in ogni carriera, anzi gli altissimi e i bassi, a volte anche gli altissimi possono fare... Anche per questo non ho la palla di vetro purtroppo, però ti assicuro che i momenti bassi sono tristi, perché succede che ti crolla tutto addosso e poi improvvisamente si rinasce, non so perché, però no, a me succede così, è successo moltissime volte e sono abbastanza preparato oggi, ecco, se un domani c'ho un altro down, però forse diciamo che oggi quando sono più sereno, ecco, godo di più di prima, perché so che poi purtroppo dopo il sereno arriva la tempesta e quindi bisogna riuscire ad affrontare sempre tutto. Punto e a capo. Pronti a navigare in ogni mare, insomma, Umberto Tozzi con il suo nuovo lavoro e anche tra le segnalazioni della settimana, invece la voce del direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar, che racconta a Marta Cagnola questa stagione che si annuncia, la prossima stagione del Piccolo Teatro di Milano. È un viaggio nell'identità. Riflettere sul presente significa non concedere demagogia a un futuro, ma leggere i germi della possibilità di futuro nel nostro presente in una linea che non è più così semplice, che è evidentemente di contaminazioni, di idee, di linguaggi, di parole, dal testo di Spregerbur, di messo in scena da Luca Ronconi, al testo messo in scena da Bob Wilson, ma anche il testo di Tony Servillo, di Edoardo, è una specie di discesa agli inferi dell'io, ma l'io per noi è identificato con Ulisse, e allora domandarsi se la Grecia è fatta parte o meno dell'Europa, devo chiedermelo sapendo quanti Ulissi attraversano le nostre città e quanto l'Europa debba rinascere confrontandosi con questi cambiamenti. Ed eccoci in questo fine settimana caldo in molte parti d'Italia di primavera e abbastanza naturale parlare dunque di bicicletta, un mezzo amatissimo nel nostro paese, un mezzo di cui ha parlato anche Nicoletta Carbone con Albano Marcarini, che è autore di La mia bici va al potassio, dove appunto l'autore racconta un viaggio in bicicletta da Milano a Roma. La bicicletta è un po' una bussola che ci orienta su quello che noi credevamo perso, no? Io in questo viaggio ho scoperto una cosa importante. Io sono abbastanza convinto che la bicicletta salverà il nostro paesaggio, perché ho visto cose che in auto, in autostrada non vedo più. Ad esempio ho visto un fiume che si chiama Po, poi ho faticato in bicicletta sull'Appennino e non li ho attraversati come si fa di solito in galleria. Poi ho visto le colline del Chianti, ho visto paesi, ho parlato con la gente. Poi ecco, mi sono fermato spesso lungo la strada, sul ciglio della strada, a guardare il panorama. Ecco, vede, queste sono cose che ad esempio in auto non si possono più fare, non si fanno più. E in bicicletta invece sì, si può ancora, e questo credo sia molto importante. Allora buona bicicletta a tutti voi, magari buona passeggiata, buona montagna, buon mare, perché no? Buon fine settimana da Fabio Cantadori in regia, da Gigi Donelli al microfono, adesso GR24, poi naturalmente l'appuntamento con l'Europa, Punto e a capo torna come sempre sabato prossimo intorno alle 9:10, a presto!